Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Il successo delle applicazioni di intelligenza artificiale degli ultimi anni, in particolare in settori come il riconoscimento automatico delle immagini e l'interpretazione del parlato, è in gran parte legato agli avanzamenti di una specifica famiglia di tecnologie che vanno sotto il nome di machine learning. Alla base di queste tecnologie, di fatto, ci sono quasi sempre reti neurali, cioè strutture che elaborano informazioni ispirandosi al modo in cui questo avviene nel cervello. La caratteristica distintiva di questi sistemi, di queste reti neurali, è che non funzionano in base a un programma predefinito, ma apprendono a svolgere il proprio compito, per esempio riconoscere gatti in un'immagine, attraverso appunto un processo di apprendimento che consiste in buona sostanza nel mostrare alla macchina tanti esempi di ciò che deve imparare a riconoscere. Tutto questo funziona molto bene, ma ha un costo computazionale molto elevato, dovuto in buona parte al fatto che le reti neurali non vengono effettivamente, diciamo, realizzate, ma vengono simulate all'interno di computer tradizionali il cui modo di funzionare è radicalmente diverso. Basti pensare che il cervello umano consuma pochi watt. Ebbene, una strada promettente per rendere le reti neurali più efficienti passa per la realizzazione di particolari, speciali circuiti ottici. E questa è una specialità dell'Università di Trento, in particolare del laboratorio nanoscienze del Dipartimento di Fisica, dove andiamo per incontrare il professor Lorenzo Pavesi. Buonasera Pavesi. Buonasera. Allora Pavesi, lì da voi è appena stato lanciato un progetto che si chiama PELM, finanziato con circa 1 milione di euro dal MIUR, col quale svilupperete dei nuovi circuiti ottici veloci, economici, sostenibili per l'apprendimento automatico. Allora, perché il passaggio, diciamo, da una elaborazione elettronica all'uso della luce è così importante? Partiamo da qui. Sì, allora, intanto la luce ha dei grossissimi vantaggi rispetto ai segnali elettrici, quindi rispetto all'elettronica, che essenzialmente è associata alla velocità con la quale è possibile elaborare l'informazione. In secondo luogo, come tutti ben sappiamo, quando una corrente elettrica passa per un filo abbiamo dissipazione di potenza. Si scalda, consuma, certo. Il filo si scalda, mentre invece quando la luce passa in una fibra ottica non si scalda e quindi intrinsecamente è una tecnologia a basso consumo rispetto all'elettronica. Infine, ed è questa la ragione per la quale viene utilizzata in applicazioni nel campo dell'intelligenza artificiale, è una tecnologia che è intrinsecamente parallela. Noi possiamo andare a contemporaneamente elaborare l'informazione in un numero molto elevato di punti. Questo... si può immaginare per esempio la diffusione della luce da una superficie scabrosa. Quello che succede è che le proprietà di diffusione della luce sono determinate da tutti i singoli punti che la diffondono sulla superficie scabrosa e quindi riusciamo a contemporaneamente a processare milioni di dati e non uno a uno sequenzialmente, esatto, come accade all'interno di un computer tradizionale. Esatto. Ecco, per dare corpo a questa visione voi svilupperete due distinte, forse anche tre distinte piattaforme tecnologiche, tutte basate sull'elaborazione ottica ma fatte con materie prime molto diverse. Sì, allora abbiamo essenzialmente due paradigmi che cercheremo di seguire. Allora, il primo paradigma è quello della fotonica integrata o dell'ottica integrata, quindi quello che si cerca di fare è che si va a scrivere su dei chip che sono esattamente gli stessi chip che vengono utilizzati in microelettronica, però si vanno a scrivere dei canali attraverso le quali la luce può propagarsi, un po' come le fibre ottiche, quindi andiamo a integrare delle fibre ottiche all'interno di un substrato di silicio. Di silicio, al posto di fare di stampare, mi lasci dire così, dei fili elettrici, voi stamperete delle fibre ottiche, ecco. Esattamente. E questo ha il grosso vantaggio che naturalmente potremo utilizzare un approccio di tipo ibrido, ovvero sia far fare alla microelettronica quello per cui la microelettronica è capace e far fare alla fotonica quello per cui la fotonica è capace. Certo. Quindi andare a sviluppare dei chip che si potrebbero anche chiamare degli acceleratori ottici. L'idea è quella di andare a utilizzare questi acceleratori ottici per fare una preelaborazione, possiamo chiamarla così, una preelaborazione. Sì, uno stadio, come se fosse una routine. perfetto, perfetto. A disposizione del calcolatore. Del programmatore di turno. L'altra approccio, ecco, che è veramente sorprendente, me lo lasci dire, eh? In cosa consiste? È un approccio che sfrutta un po' quel principio che ho detto prima della diffusione della luce, dove a questo punto il diffusore non sarà più una superficie qualsiasi, ma sono delle superfici che possono o essere nanostrutturate. Questa è l'attività per esempio che viene seguita alla Scuola Normale di Pisa, che è un partner di questo progetto, oppure addirittura sono delle gocce di acqua o delle gocce dei nanoorganelli di materiale biologico. Ecco, adesso non so cosa ci potrà dire di più, ma stiamo parlando di utilizzare, diciamo, la spontanea, mi lasci dire, diffusione della luce all'interno di una goccia d'acqua per fare dei calcoli, è corretto? Esatto, sì, esattamente. Questo è quello che vogliamo fare. Per esempio, forse l'esempio più interessante è quello dei nanoorganelli, quindi di questi agglomerati di cellule biologiche, e quindi quello che succede è che noi illuminiamo queste cellule biologiche. Questa è un'attività che viene svolta a Roma dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Quello che si fa è che si illuminano questi agglomerati di cellule, questi nanoorganelli, e poi dopo, sulla base del profilo dell'immagine che si forma dovuta alla diffusione della luce da questi nanoorganelli, noi andiamo a conoscere quello che sta succedendo all'interno delle cellule, all'interno del diffusore biologico. E a proposito di capire cosa succede ad una massa di cellule, una delle prime applicazioni che voi sperimenterete diciamo nell'utilizzo di queste nuove reti neurali è proprio il monitoraggio di cellule cancerogene. Sì, esatto, cioè l'idea è quella che a questo punto andremo a vedere come le cellule tumorali evolvono, l'evoluzione, o se è possibile controllare l'evoluzione delle cellule tumorali sulla base di determinati farmaci e cose di questo tipo. L'aspetto un po' più interessante è che utilizzeremo direttamente le cellule, quindi utilizzeremo direttamente il tessuto biologico per fare l'analisi. Va bene, allora grazie professor Pavesi. È un piacere, buona serata. Ci fermiamo qui, cari ascoltatori, appuntamento a domani.